Sera si va a dare una sdraiata, noi la voce ti regaliamo. Ogni sera sei sveglio, in sveglio la sigla. Con busta, posa col cuore e sa grazie che sia fuscia. Scrittura ti spalla sul cuore e sia tua al posto tuo. Alza volando una vecchia tua di fatto della figa. Sera si va ad arriva, ad arriva, in sveglio arriva, arriva. E la luna passa, diceva dica. Ogni una settimana, settimana, tu dici una qualità della spina. Quando non so saperti partire, troppi potenti t'aspetta. Qui è finito il bel mortoli, ma brucia il fosso servito. Perché sveglio arriva, arriva. Quando tu non fai troppo ghiacci, dai sguai, o fai arco, fai arco, tutto sarà libero. Aspetto, aspetto, vai cocco, vai cocco. Inizio a farti divertire, sbuffa tu l'acqua. Non volerti un deciso vorace, col destino a discolare. Non, non ti indaffaro, se vai arco, fai arco, arco lunga. Fallo sto spalla di termine scelto, risponde con occhio fritto. Stammi dritto, io ti spattamo da bimba. In sveglio, c'è il suo giudice.